uscire non so. Passo il tempo consumando tutto il tempo che ho. È un giardino senza vita, questo mio non ci sei. Ed il fiume è un corso di momenti bui. Quante ore, quanti giorni, quanti mesi, quanti anni, quante sere senza dare, senza avere, quante sere senza di te. Quando mi spoglio e tu sei dentro di me, sotto il mantello dei sentimenti, sotto i ponti, sognavamo mare e monti, mentre adesso mare e monti sono fra di noi. È tornato strade per averti con me e restare fermi lì, soli io e te. Quante ire, quante ingiurie sono nelle mie memorie, quanti volti senza voce, non ricordo, non ho pace. Ma se verrai, sarà più azzurro questo mare di guai, una vittoria dei sentimenti, sentimenti, sognavamo mai. Satelliti.